Avete mai visto su una chat di WhatsApp un messaggio di questo tipo? Da ottobre scorso WhatsApp dà la possibilità di eliminare i messaggi già scritti e inviati, a patto che venga fatto entro un'ora da quando sono stati scritti. La cosa un po' fastidiosa è che il messaggio non sparisce senza lasciare alcuna traccia, ma rimane sulla chat questa scritta: un messaggio è stato eliminato. La cosa terribile è proprio quando noi leggiamo questa frase: un messaggio è stato eliminato. Cioè, questo messaggio è stato scritto e poi è stato eliminato. Oh mio Dio, ma allora sarà stata una cosa terribile? No, assolutamente, devo saperlo. Quale messaggio era stato scritto e perché è stato eliminato? Ferma tutto. Che problema c'è se lui o lei ha scritto un messaggio e poi l'ha eliminato? E perché stiamo a farci mille mentali? Innanzitutto potrebbe essere che ha sbagliato conversazione, oppure ha fatto un errore ortografico, oppure ha messo un emoticons sbagliata per errore. O se invece davvero si trattasse di un messaggio che ha scritto e poi ha pensato di eliminarlo perché ha valutato fosse meglio? Sapete che cosa vi dico? Io sono proprio contento di questa possibilità che WhatsApp ha introdotto e provo a spiegarvi il motivo. WhatsApp viene chiamata app di messaggistica istantanea. E il problema sta proprio lì: messaggistica istantanea, veloce, impulsiva. Leggo un messaggio e subito, tac, rispondo a questo messaggio, senza pensarci a volte. Ora, dentro di noi è come se esistessero due sistemi di pensiero. Qualcuno li chiama il sistema impulsivo e il sistema riflessivo. Il sistema impulsivo come funziona? Indovinate un po'. Agisce distinto, senza pensarci, senza ragionarci, in modo immediato ed impulsivo. È un sistema veloce, fondamentale per la sopravvivenza della nostra specie. È quello che ci ha salvato dai pericoli della giungla, dai leoni, dalle bestie feroci. È il sistema che ci fa fare un salto quando vediamo un serpente o un topo. È il sistema che ci salva la vita quando in macchina freniamo distinto di fronte a un pericolo o quando magari ci buttiamo su nostro figlio per salvarlo da un pericolo improvviso. Ma è anche un sistema che ci fa venire voglia di tirare un pugno a una persona che ci ha appena offeso, che ci fa rispondere senza pensarci prima, che ci fa litigare quando magari proprio non ce ne sarebbe motivo, che ci fa offendere una persona che amiamo senza pensarci su. È il sistema che non appena vediamo un messaggio su WhatsApp a volte ci fa rispondere con una battuta di istinto o con un emoticons di un certo tipo, o che ci fa scrivere una brutta risposta perché quello che abbiamo letto ci ha dato fastidio e ci verrebbe voglia di dirgliela proprio in faccia, ed effettivamente lo facciamo, scriviamo e inviamo senza pensarci. E poi c'è il sistema riflessivo, quello che ci fa ragionare con calma sulle cose che ci accadono, quello che ci suggerisce quello che è meglio dire o a volte non dire, quello che a volte ci fa chiedere scusa o ci fa mordere la lingua dopo che abbiamo pronunciato quella frase. È il sistema che tante volte, non appena abbiamo mandato un messaggio su WhatsApp e lo rileggiamo, ci fa dire: no, ma che stupido sono stato a scrivere così. I nostri remoti antenati, vissuti più di 30 anni fa, non avevano questo problema. Usavano carta e penna e prima di spedire la loro lettera la leggevano e rileggevano, magari anche a distanza di un giorno, e soltanto alla fine, se proprio erano convinti, la spedivano. Ed ecco quindi che WhatsApp ci viene in aiuto con questa nuova funzionalità. Hai appena scritto una cosa e ti sei reso conto che è proprio una cavolata? Dai, puoi ancora cancellarla, puoi rimediare e il tuo amico non la leggerà. Certo, resta quella scritta un po' fastidiosa: questo messaggio è stato eliminato. Beh, per me che ho scritto quel messaggio e poi l'ho cancellato, quella scritta sta lì a ricordarmi: Giovanni, la prossima volta, prima di inviare un messaggio, non affidarti soltanto al tuo sistema impulsivo, metti anche in moto il sistema riflessivo, ovvero, come si diceva una volta, prima di azionare la lingua, controlla che sia collegato anche il cervello. Quando invece siamo noi a leggere quella scritta, che significa che qualcuno ha scritto e poi ci ha ripensato. Beh, Non chiediamo spiegazioni e soprattutto non facciamoci domande del tipo chissà che cosa avrà scritto. Lasciamo all'altro il diritto di ripensarci. E ringraziamo WhatsApp, che forse ci ha risparmiato di leggere un messaggio che ci avrebbe fatto rosicare ancora di più.